avere, dire da dove vieni, in quali quartieri vieni è fondamentale, quindi non ti basta il nome e il cognome, bisogna avere anche da dove, in quali quartieri abiti. Io ho scritto sempre sul quartiere dove ho vissuto fisicamente, a Piazza Vittorio ho vissuto 6 anni, a Via di Marconi 4 anni, a San Salvario 2 anni, sono luoghi che ho iniziato a conoscere, ad amare e diventano personaggi nei miei romanzi. E ad Algeri torna, è tornato di recente? Sì. In Algeria torno almeno 2 volte all'anno e l'ultima volta sono stato ad aprile, quindi meno di un mese fa, e sono stato una settimana. E... Com'è l'Algeria vista dall'Italia? E l'Algeria vista dall'Italia o da fuori è ovviamente un paese in qualche modo in difficoltà, perché un paese ricco con una popolazione povera, e questo la dice lunga sulla corruzione. C'è una corruzione molto diffusa e purtroppo abbiamo una classe dirigente che è incapace. Purtroppo non è solo il caso algerino, ma questo di una classe dirigente incapace lo troviamo anche in altri paesi, purtroppo. E c'è una parte della società che sono i giovani che non riescono a trovare lavoro, a trovare un futuro. Non tornerebbe in Algeria, non ci ha mai pensato. Scusi, no, c'è stato un problema in regia, rifacciamo questa. Prego, prego. Non tornerebbe in Algeria, non ci ha mai pensato? No, no, ma io torno perché comunque la mia terra, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici. Io continuando anche a scrivere in arabo, per me è anche un modo per essere presente. Penso anche che sia un paese molto ricco sul piano narrativo, sul piano letterario, cioè, ci sono delle storie da raccontare. Adesso torno 2 volte all'anno, forse nel futuro tornerò ancora di più. La visione che abbiamo noi italiani di quel paese e anche dell'Islam, dei paesi arabi in generale, secondo lei corrisponde alla realtà o è nutrita, come spesso accade, di stereotipi? Ma io penso che il problema maggiore, ma non solo per quanto riguarda l'Algeria, l'Islam, il mondo arabo, in generale come approccio, è la santificazione. Si tende proprio a semplificare tutto e non si può semplificare una storia fatta di secoli, fatta di complicazioni, fatta di dettagli. Ci vuole pazienza, ci vuole conoscenza, ci vuole una chiave addirittura, e purtroppo viviamo anche un tempo dove la velocità è una regola, non c'è tempo per approfondire e questo ovviamente ci crea tantissimi problemi, non riusciamo veramente a capire veramente queste determinate situazioni e ci affidiamo spesso anche a delle persone incapaci, penso agli esperti fai da te, che vanno in televisione a parlare di economia, a parlare di sport, a parlare di politica, a parlare di religione, mi viene in mente Sgarbi come modello, insomma, il modello è quello purtroppo. Lei ha studiato filosofia ad Algeri, poi alla Sapienza si è laureato in antropologia culturale. Se non sbaglio, ha fatto un dottorato con una tesi, questo l'ha letto in un'intervista, sugli immigrati arabi musulmani in Italia. Esatto. Beh, una tesi molto attuale. A che conclusioni è arrivato? Ma le conclusioni sono nel mio romanzo, Divorzio all'Islamica di Marconi. Perché di solito uno che fa una tesi alla fine la pubblica come saggio, ma io ho la mia idea della letteratura, del romanzo, e il romanzo per me è anche un frutto di ricerche, di documentazione. Quindi la laurea le è servita anche per questo? Il dottorato, sì. Sì, il dottorato. Sì. Esatto, ho avuto modo di approfondire, di indagare questa realtà e alla fine è venuto fuori questo romanzo, Divorzio all'Islamica di Marconi, dove ho fatto i conti con la mia cultura di origine, ho cercato un po' di guardarla da fuori con un filtro che è il filtro italiano, la lingua, la cultura italiana e mi sono messo nei panni di una donna,